Viaggiatori, vi verranno sottoposti quattro quesiti intrecciati. Ogni risposta vi servirà per la risoluzione del quesito successivo. In bocca al lupo. Nel bosco, all'inizio del vostro cammino, avete imparato ad ascoltare il battito invisibile del tempo. Ora immaginate che tutta la storia del nostro universo magico, lunga 8 miliardi di anni, sia compressa in una singola giornata di 24 ore. Se la creazione del vostro regno è avvenuta 3 miliardi di anni fa, a che ora in questo giorno cosmico avrebbe preso vita?